24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Facendo una ricognizione di tutte le ultime cure che sono state inventate, sì, per dare il modo agli infermi che soffrono di questa grave malattia di fare qualcosa in più di quello che arrivano a fare adesso. Sì. Silvio Berlusconi, che oggi esordisce ai servizi sociali, si prepara così. Sta studiando il modo per alleviare gli infermi di questa terribile malattia che è l'Alzheimer, malati con i quali dovrà avere a che fare da oggi. Si sta dando da fare, sta studiando come alleviare le sofferenze dei malati di Alzheimer. Cari italiani, buongiorno, alle 6:35 minuti, è venerdì. Lo riscandisco, è venerdì. E tra l'altro si chiude oggi, contestualmente, la 53esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 53esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Voilà! Fidatevi che è la 54esima settimana decisiva, qualcosa succederà. Intanto per ora che è successo? Un mega terremoto, leggi i giornali, al Fatto Quotidiano non gongolano, eh? No, ci sono delle manette grandi così, li vanno a prendere uno a uno, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, giudicato, no, il quotidiano forcaiolo di Travaglio. E poi, insomma, manette per tutti, manette, due inchieste ieri, quella che ha portato all'arresto di Scaiola e quella che ha portato a vari arresti per la vicenda Expo, che hanno terremotato l'Italia, ci hanno riportato indietro di 20 anni, sono rispuntate Primo Greganti, vedo che è andato il compagno G, il conto Gabbietta, ma cose veramente... Poi dicono l'Italia guarda al futuro, ma che futuro? Ma guardiamo sempre al passato, rispuntano. 6:36 minuti. Vabbè, saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto Pietro Lacorte in regia e apriamo il Parlamento. Dai, che c'è una notizia che mi ha fatto, lo devo dire, incazzare e dire poco. Intanto saluto Carlo Rienzi del Codacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno. Come buongiorno va? Ha visto quante manette? Stia attento, che se bussano alla porta non apra. Ma non ho questo problema, per la verità. Mi sembra invece che dovremmo averlo come italiani, perché... Insomma, pure l'Expo 2015. Ma è lì la notizia che mi ha fatto arrabbiare, la scrive anche Libero, e saluto il vice direttore Massimo De Manzoni. Massimo, ben ritrovato. Buongiorno. La scrive anche, sai qual è la notizia che mi ha fatto più arrabbiare oggi? Proprio letteralmente, no? Nel giorno in cui arrestano alcuni dell'Expo, che succede per finanziare l'Expo? Dillo tu, forse sei capito. Che succede per aumentano la benzina. Aumenta la benzina! Che vergogna. No, ma io dico, ma la gente poi... Ma state attenti, perché la gente non è stupida. Poi è vero che siamo un po' cialtroni, noi diciamo, prendo, faccio, e poi non facciamo niente. Ma come si fa nel giorno in cui arrestano delle persone accusate di aver preso mazzette per l'Expo a aumentare le accise della benzina per finanziare l'Expo? Ma come si fa? Massimo, come si fa? Ci vuole proprio, no? Sfortuna. Sfortuna, tu dici, no, sfortuna. Se aumentassero la benzina... Ah, l'avevano già deciso, certo. No, ma intanto l'avevano già deciso, poi l'aumento della benzina per finanziare qualcosa in Italia è un rito praticamente. Sì, certo. Non era una cosa. Hanno avuto la sfortuna della coincidenza che. Hanno avuto sfortuna. Effettivamente la coincidenza. Avvocato Rienzi, è sfortuna, porca miseria. È una sfortuna, sì. Io mi sono candidato ad andare a controllare tutti gli appalti di Expo, eh? Ah, ecco. Sì, quello dove si è candidato anche Di Pietro, che poverino ormai non sa più dove andare. Sì, voglio vedere se mi chiamano. In che senso? Di Pietro, eh. Ma se chiamano Di Pietro, no, Di Pietro non lo chiamano, se chiamano lei andare a vedere, no. Voglio vedere se mi chiamano. Sto aspettando. Mamma mia. Il dottor Sala. Che non guarda in faccia a nessuno, dice lui, che ha dato gli incarichi legali senza gara. Sapete, no? Ci sono gli avvocati che vengono nominati senza nessuna gara. Il Codacons d'assalto. De Manzoni si muove il Codacons. Ci occupiamo di tutto, anche di questo. Anche di questo. Rienzi è lì. No, comunque questa storia della benzina, Massimo, dimmi qualcosa di quanto aumenta. C'è gli ascoltatori che dicono la benzina ancora. Come mai hanno pensato alla benzina? In Italia che cosa colpisci se devi colpire qualcosa? Le case? E ci hanno pensato alle case, perché attenzione che ieri ci sono state brutte notizie anche sulle case. E la benzina? E la benzina. Gli automobili, o meglio, gli automobilisti. Cioè, tutta gente non può scappare da nessuna parte. Anzi, più scappa e più paga. Se volete scappare e fate il pieno, dovete pure pagare di più. Quindi, capito? Infatti, i possessori di case e di auto italiani sono più attestati d'Europa. Questo è certo. Sono quelle cose che si fanno una rabbia terribile, proprio perché dici, ma insomma, non è che poi anche un po' di fantasia inventarti qualcos'altro. No, invece niente lì. Però io devo, tra l'altro, mi ha fatto anche un pochino arrabbiare che, pensate un po', si spartivano le mazzette, secondo l'accusa, nel centro culturale intestato a Tommaso Moro, cioè un illuminato del pensiero filosofico e storico, ma proprio Rienzi anche qui si potrebbe fare tante elucubrazioni, ma senza ritegno, no? Vabbè, ma insomma, questo. Comunque, volevo dire che ogni volta che aumentano le accise, aumentano gli indecisi e gli astenuti alle elezioni. Questo non l'hanno capito loro, o forse è quello che vogliono. Perché la gente, quando vede queste cose, dice: ma io chi cavolo devo votare di questi qua? Visto che l'unico che strilla, poi strilla e basta. E gli altri sono tutti d'accordo a darci le fregature. Sì, però io su questo vorrei capire la vostra posizione. Rienzi è per il no Expo? Ieri ho litigato un po' su Twitter con questi no Expo che mi scrivevano. Ecco, vedi, perché io avevo detto ci mancava solo i no Expo in Italia, c'è tutto no, tutto no. C'è Emiliano, sindaco di Bari, che dice cancelliamo l'Expo. Io non le capisco queste posizioni, ma prendiamo quelli che sono disonesti, ma allora in Italia non si può fare niente perché c'è sempre la corruzione dietro l'angolo, allora non possiamo fare nessuna iniziativa, nessuna infrastruttura, nessun. Il problema sta che la disonestà sta a monte, cioè se tu non crei una struttura di controllo effettiva, alla fine finisci sotto il controllo della magistratura. Allora è inutile dire facciamo un concorso a chi viene a fare i controlli degli appalti e presenta, quello presenta il curriculum, io presento il curriculum, eccetera. Se tu non hai a monte, ma prima ancora di questo, un sistema di vero controllo. Cioè ho capito, ma se uno si prende. Stanno pubblicate su internet. Sì, però Rienzi, se uno si prende una mazzetta, non lo so se l'ha fatto, e prende 10.000 euro e va a darli a uno, che tipo di controllo si può fare di fronte all'eventuale corruzione di una persona? Cioè. No, è la procedura che deve essere. Se io avessi su internet, tutto segreto, pure loro tengono tutto segreto, se io avessi su internet tutte le carte presentate da tutte le aziende che partecipano a un certo appalto, io impresa piccola, impresa che sono stata esclusa o altro, cittadino, associazione, eccetera, potrei vedere qual è il confronto e chi ha ragione, chi ha torto, chi ha più diritto e chi ha meno diritto. Ma perché lo possono fare solo loro? Allora cominciasse il dottor Sala a mettere su internet tutti gli atti di tutte le procedure di appalto, piccole, grandi, e così poi Rienzi le studia. E facesse le gare per tutto, anche per gli incarichi legali. Che così Rienzi poi le studia. De Manzoni è così è così facile, come dice Rienzi, c'è una questione di trasparenza dall'alto. Non è così facile, è chiaro che ci vogliono controlli, è chiaro anche che noi stiamo parlando un po' un tanto al chilo, qui c'è stata una retata, ci sono migliaia di pagine di faldoni da studiare, bisogna capire anche la solidità dell'inchiesta. Invece ne stiamo parlando come se già fosse tutto scontato, ma al di là di questo... No, beh, è chiaro. È vero che ci sono anche le immagini, no, addirittura delle presunti passaggi di Mazzetti. Sì, no, ma ci sia stato qualcosa, non c'è dubbio, come c'è sempre, e non solo in Italia, perché poi noi ci flagelliamo, ma non è che siamo gli unici che fanno queste cose. Quando ci sono grandi interessi, il rischio che ci sia anche della corruzione è altissimo. Sì. L'occasione fa l'uomo ladro. Sì. Sì, però questa cosa di vent'anni fa che tornano. Aspetta, che c'è Rienzi? Non ho parlato. Niente. No, volevo capire questa cosa. Stavo dicendo che da lì a dire che bisogna abolire Expo, infatti. L'ennesima occasione per stare zitto persa dai Emiliano. Dovremmo chiudere Bari, con tutto quello che è successo a Bari negli ultimi anni. C'è un'inchiesta ogni tre giorni, è successo di tutti i colori. Forza, dai, questa la twittiamo. Massimo De Manzoni, chiudiamo Bari. Così Emiliano, che ci segue sempre con affetto, chiudiamo Bari. Con questo tipo di logica. Questa la mettiamo. Però insomma c'è questa vicenda dei vent'anni che tornano, le stesse facce che spuntano. Rienzi se lo ricorda, Primo Gregante, il compagno. No. Come l'ha visto? Un po' invecchiato forse nelle foto? Invecchiato non nel prendere il fuoco. No, infatti ha scritto anche un celebre libro, Primo Gregante, tipo Io sono tornato, il compagno G è tornato, e qualcuno ha già giunto in carcere. Ha scritto un libro tre giorni, no, ma non si ironizza sul carcere, per carità, no, però certo. Insomma, speriamo che sia un errore giudiziario. Speriamo che sia un errore giudiziario, insomma, o forse si potrebbe anche dire speriamo di no, perché sennò tutto sto casino e poi un errore giudiziario sarebbe come la rigiri, è un po' una frittata venuta male. Si potrebbe mandare Jenny a Garogna a controllare. Jenny a Garogna non lo so, però dopo il traffico, dopo le informazioni sul traffico, c'è anche l'altra vicenda, la vicenda Scaiola. Insomma, ma ieri anche qui si è scatenata un'ironia quando ho twittato subito, no? Quando l'ANSA ha comunicato arrestato Scaiola, tutta la gente avvisatelo, ma lo sapeva a suo, vabbè, ma insomma, cioè, si parla sempre di manette, carcere, manette, che vorrei capire qui dopo il traffico da Massimo De Manzoni, perché Libero titola manette grilline l'apertura di Libero, tra poco ci spiega perché. 24 mattino. E Miriam, salve. Ma che lei sappia, per oggi Renzi ha già minacciato le dimissioni? Certo che da quando Berlusconi ha perso tutti i consiglieri decenti e si fa consigliare da Brunetta si sente. Dice un sacco di cretinate tutti i giorni. Dunque Alfano ha smentito ogni trattativa con gli ultra. Infatti pare abbia detto: trattare con gli ultra non si fa. Agrigento in Serie A. Su Alfano e la sua audizione in Parlamento, che non c'è stata trattativa fra Stato e ultra, è lo stesso del caso del rapimento di Anna Shalabayeva, è lo stesso degli affitti d'oro, è lo stesso che dichiarava che Ruby era la nipote di Mubarak. Per cui oramai non si va più a votare, cari italiani, questi vi tenete. Ciao Miran, ho saputo da pochi secondi che hanno arrestato Scaiola e probabilmente l'avranno arrestato a sua insaputa. Informatevi meglio. Quale deve essere il ruolo della stampa e dei media? Fare da cassa di risonanza del potere o fare da strumento di controllo per noi cittadini di come si comporta il potere e l'autorità? Quando l'autorità non è equa, è un sopruso, non è un manifesto rivoluzionario, è addirittura il catechismo della Chiesa Cattolica. Cara Sandra, Sandro. Caro Sandro, ti volevo dire una cosa. Questo mondo è un mondo veramente corrotto. Si deve essere onorevoli, no? Che percepisco ci vuole tanto ragionare in Italia, non ci vuole niente. Vabbè, grazie ascoltatrice col suggerimento dietro. Sandro! No, Sandra! Cara Sandra! Chi era il marito che ti ha suggerito? Vabbè, allora siamo con Carlo Rienzi del Codacons e con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, che oggi apre così manette grilline. Perché? Perché tutti i voti per Grillo, dici, no? Eh sì. L'idea è quella, nel senso che l'ennesima retata sotto elezioni questa volta è di partisan, nel senso Scajola sappiamo che è del centrodestra, Alex Po, Frigerio è del centrodestra, ma Greganti è un simbolo del centrosinistra. Ieri sono successe altre due cose un po' sottotaciute dagli altri giornali, ma anche a Novara e a Siena. A Novara è finito in carcere il braccio destro di Penati, anche lui del centro-sinistra, sì. E a Siena sappiamo presidente della squadra di basket, esattamente, c'è tutta la banca rossa di MPS che sta facendo ancora sentire i suoi effetti. Il giorno e delle manette? È evidente che se c'è qualcuno che può trarne giovamento, quello è solo Grillo, è che Grillo. Già vola nei sondaggi, la gente che dice ma qui è tutto uno schifo, finisce per votare per Grillo. Dici, Rienzi, non lo so, questa è la lettura politica di Libero, cioè Beppe Grillo che catalizza tutto questo malessere che si sente. Rienzi, le piace come lettura? Secondo me è l'astensione che catalizza. Più l'astensione. Perché purtroppo molti di quelli che hanno dato Grillo, me compreso, sono molto delusi da quello. Perché non basta strillare, protestare, essere l'unico apparentemente all'opposizione. E il problema è anche trovare la strada per fare delle cose. E questo non va bene. Quindi si passa, molti passeranno dal voto anche a Grillo all'astensione. Questa è la mia previsione. Mi pare che oggi i sondaggi diano questo come risultato, quindi non è tanto vero che siano voti per Grillo queste vicende di corruzione, ecco, ma di fastidio totale verso la politica che aumenta ogni giorno di più ed è molto pericoloso questo. Ma questa cosa di Scajola, mamma mia, ma io... Per carità, anche qui De Manzoni bisogna essere garantisti, nelle altre accuse è stato... assolto, fango mediatico, certo una vita politica nella quale ogni due per due è finito in qualche guaio anche per qualche dichiarazione, no? Quantomeno inopportuna, ricordiamo Rompicoglioni e Marco Biagi, insomma, ma che politico è? Cioè che giudizio si può dare? La gente è impietosa, cioè appena sente parlare di Scajola è sentito anche nella segreteria. Sì, perché Scajola poi appunto è passato la storia per un paio di frasi e se non c'è niente di più che una frase rotonda come mi hanno pagato la casa mia insaputa oppure quel rompicoglioni dell'uomo che poi viene ucciso per rovinarti. Io francamente io non lo conosco molto Scajola, l'ho visto, anzi non lo conosco per niente, l'ho seguito solo da lontano. Una cosa si può dire, se fortunato no, come la coincidenza delle accise sulla benzina. Non ne azzecca una. Non ne azzecca mezza. Ho tentato di leggere un po' di intercettazioni del faldone di Scajola, ti giuro era tutta una roba criptica, sembravano... l'intercettazione di uno che sta giocando ai servizi segreti, sì. Ma tutte allusioni, però non si capiva assolutamente niente. Sì, no, è accusato di avere favorito la latitanza di questo Matacena che ha una condanna. È accusato appunto di aver cercato di portare Matacena da dove si trova gli arresti a Dubai. In Libano. A Beirut. Oh, guarda caso proprio lì ci sono intercettazioni a Beirut, proprio lì. Sì, a Beirut. Ma lì ci sono intercettazioni dell'anno scorso. Cioè è un anno che va avanti questa storia qui e lui non c'è riuscito a portarlo. Non è neanche Rienzi, manco ce l'ha fatta, cioè alla fine non... Infatti ci sono delle cose che lasciano perplessi, ma comunque insomma, poi quello aiuta l'amico, insomma, vabbè. C'è un interesse, se c'è uno ti chiama un amico e ti sente mi dai un aiuto a fare questa cosa, certo non deve essere dato se è un reato, sì, ma sì. Se uno dice guarda io conosco quello, vai da quello, ma non lo so, insomma, sempre certe volte troppe cose la difesa vedere. La difesa dell'avvocato Rienzi, avvocato difensore di Claudio Scaiola, no si fa per scherzare. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio Carlo Rienzi e Massimo De Manzoni, alla prossima, è tempo di Giornale Radio. Cara Sandra, Sandro, caro Sandro. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Cari italiani, nel giorno delle manette, ieri, di questo parleremo ovviamente nel corso del nostro approfondimento con ospiti dalle 8:15, oggi un insieme di ospiti molto molto importante, avremo con noi il sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, colui che per la DDA di Reggio Calabria ha condotto l'inchiesta che ha portato all'arresto di Claudio Scaiola. Avremo anche il direttore del Secolo XIX, Umberto La Rocca, che conosce molto bene, visto che Scaiola è un politico ligure. E poi avremo anche sulla vicenda Expo, dicevamo, il giorno delle manette, Gherardo Colombo, nostro ospite, colui che è stato per anni magistrato del pool Mani Pulite, sarà ai nostri microfoni per cercare di capire, visto che tornano e rispuntano i volti, alcuni dei volti di 20 anni fa. Insomma, l'Italia delle manette, questo anche sui giornali che andiamo a leggere. Questo venerdì 9 maggio, chiusura della 53esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Intanto i titoli, il Sole 24 Ore si distingue sul titolo di apertura, BCE a giugno misure anticrisi, così è il titolo di prima pagina. Per il resto è ovviamente il giorno, come detto, degli arresti eccellenti. Corriere della Sera, gli appalti e i favori all'ombra di Expo, questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, la grande retata dell'Expo. Per Il Fatto Quotidiano, dove c'è il disegno di un paio di manette che campeggiano in prima pagina, vanno a prenderli uno per uno, questo è il titolo. Mentre il giornale, manette a go-go, retate elettorali, scrive il giornale. Il Messaggero, bufera Expo, torna Tangentopoli. Verrebbe da aggiungere perché torna. Non era mai andata via, forse, no? Comunque, la Stampa, scandalo mazzette all'Expo. Libero invece titola manette grilline, perché, scrive il quotidiano, di cui abbiamo avuto ospite il vice direttore De Manzoni prima, sono manette che fanno fregare le mani al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo. Senza vergogna, con la faccia di Scaiola, questo è il titolo del Secolo XIX, mentre invece il Manifesto, mani ripulite, la grande retata, è anche il titolo di Avvenire. Segnalo che l'Unità è in sciopero oggi e mi risulta anche domani, e dunque non la troverete in edicola. Vogliamo, prima di tuffarci in questa giornata catalizzata da queste due notizie, vale a dire l'Expo e la vicenda Scaiola, tuffarci su altro. Intanto prende il giusto rilievo e spazio sui giornali la vicenda drammatica che forse ricorderete e che ha visto protagonista Andrea Albanese. Chi è Andrea Albanese? È quel papà che a Piacenza, quando circa un anno fa, dimenticò il figlio di 2 anni, Luca, in auto e andò a lavorare. Il figlio fu trovato morto 9 ore dopo. Ebbene, la notizia che riporta questa faccenda sui giornali è che il padre è stato assolto. Il padre che dimenticò Luca nell'auto fu vittima di un buco nella memoria. Per questo la perizia di due psichiatri ha portato all'identificazione di amnesia dissociativa transitoria, dunque era incapace di intendere nel momento in cui ha compiuto questa tragica dimenticanza e per questo è stato assolto. Tutti i giornali, io ho letto il titolo del Corriere della Sera, dedicano chi una pagina, chi mezza pagina a questo tema, anche sul Messaggero, bimbo morto in auto, la perizia scagiona il papà che lo dimenticò. Racconta per esempio sul Corriere Francesco Alberti a pagina 25, tra le voci di strada, tra la gente sconvolta e in cerca di risposta, in quel maledetto pomeriggio del giugno scorso ci fu chi disse anche era tutta colpa del diavolo, perché solo il diavolo avrebbe potuto spegnere la mente di quel povero uomo facendogli dimenticare il figlioletto in auto. E quasi un anno dopo, ieri, a quell'entità diabolica evocata dalla disperazione popolare, la scienza, tramite un perito di tribunale, ha provato a dare un nome: transitoria amnesia dissociativa, un reset crudele quanto fulmine, una lama di buio che avrebbe oscurato in quei minuti fatali la mente di Andrea Albanese, 40 anni, brillante dirigente di azienda, che quella mattina del 4 giugno, come quasi tutte le mattine, avrebbe dovuto portare il piccolo Luca, 2 anni, all'asilo aziendale, a 2 passi dal suo ufficio, periferia est di Piacenza. E invece tirò dritto, parcheggiò, uscì dall'auto senza che il suo sguardo incrociasse quel batuffolo che dormiva nel seggiolino posteriore e quando se ne accorse 9 ore dopo, per Luca non c'era più niente da fare. Ci sono voluti mesi, una forza indicibile, chissà cos'altro, per quest'uomo per sfuggire alla pazzia tornando alla vita. Resta dunque il dramma, ma dal punto di vista giudiziario per Albanese è una vicenda in discesa. L'uomo dunque non era capace di intendere. Questa è una notizia di cronaca che ritorna prepotente sui giornali come una notizia di cronaca, una notizia secondo me positiva che trovate sul giornale ed è questa, la racconta pagina 14 Giampaolo Iacobini. Il giornale in realtà la mette in maniera molto negativa, la mette sotto la dicitura le follie delle regioni. In realtà c'è un dibattito in corso, ci sono paesi in cui, in Brasile, questa iniziativa viene utilizzata. Sconto di pena ai detenuti se leggono un libro. Io non la trovo una cosa così scandalosa. La giunta calabrese di Scopelliti, tra l'altro naufragata, poi Scopelliti si è dovuto dimettere per un'inchiesta, propone di condonare 3 giorni di carcere per ogni volume letto. E allora, la cultura rende liberi, per acculturarsi non servono più studi ed esperienza, al tempo del governo Renzi basta saper leggere, dice il giornale con un inizio di articolo polemico. Il suggerimento che accorcia la permanenza dietro le sbarre a ogni volume sfogliato arriva dalla Calabria, a metterlo nero su bianco la giunta regionale fino a pochi giorni fa presieduta da Scopelliti. L'assessore regionale calabrese alla cultura Mario Caligiuri dice: la lettura è uno straordinario antidoto al disagio, favorisce la consapevolezza, riscatto sociale e personale, e in base al provvedimento adottato si prevede che i detenuti condannati a pena detentiva superiore a 6 mesi che leggeranno un libro potranno avere 3 giorni di sconto di pena. Le verifiche verranno effettuate dall'educatore carcerario e si potrà avere al massimo 48 giorni di sconto di pena all'anno. Ripeto, non la trovo una cosa così scandalosa o folle come il giornale invece la propone. C'è insieme a questo le varie polemiche che continuano su coloro che non pagherebbero, non darebbero i soldi, l'obolo al partito. Soprattutto nel Partito Democratico c'è la polemica che coinvolge diversi senatori e deputati che non avrebbero dato quello che il senatore Mineo, che non ha pagato, dicendo ieri nella lettera io alla RAI guadagnavo anche molto di più, quello che il senatore Mineo definisce un vero e proprio pizzo al partito. La lite sulle quote del partito, tirata fuori dal Fatto Quotidiano, oggi Giulia Merlo del Fatto, intervista pagina 8, Teresa Bellanova, deputata leccese nonché sottosegretario al lavoro, anche lei non paga. Ho fatto un mutuo per pagare i debiti del PD e non ci sto a essere messa nella lista dei cattivi. In Parlamento dal 2006, un passato da sindacalista tra i braccianti della provincia leccese, dice dal 2008 al 2013 ho dato al partito 331.141 euro tra versamenti al partito nazionale, regionale o provinciale. Ho assunto a mie spese le dipendenti del PD di Lecce, che altrimenti sarebbe stata licenziata. A questo ci aggiungano 23.075 euro che ho speso per l'affitto della sede del circolo di Alessano in provincia di Lecce, di cui continuo a farmi carico, ma non ho dato quei famosi 30.000 euro per una ragione semplice: ho sottoscritto come garante un mutuo a copertura dei debiti contratti dal PD di Lecce, dunque non li ho dati perché non li ho. Ho dato in garanzia la mia casa di famiglia, il mio patrimonio personale. Mannaggia, cioè, sembra che sia stata devastata economicamente dalla discesa in politica il sottosegretario Teresa Bellanova. Comunque, insomma, non dà i soldi. Ripeto, il senatore Mineo li definisce un vero e proprio pizzo. E oggi sulla Stampa, pagina 11, torna su questa vicenda: Mineo e i soldi non versati, io non pago il pizzo al PD. Ma non sono un taccagno, dice a Marco Bresolin, è che io il pizzo non lo voglio pagare. Non vi sembra strano, tra l'altro fa notare Mineo, che questa notizia esca proprio oggi, che la Boschi ha chiesto la mia testa? È la domanda retorica di Mineo. Sapete che Mineo ha portato avanti un'idea diversa sulla riforma del Senato, che ha fatto arrabbiare Renzi. Infatti ieri in un'intervista ad Avvenire il ministro Boschi gli aveva ricordato che la sua permanenza nel gruppo del PD non è un obbligo. Ma Mineo dice: non voglio lasciare il partito, ma non voglio neanche versare la quota. Da quando è iniziata la mia avventura ho versato nelle casse del PD 27.000 euro. Ho sostenuto direttamente molte altre spese per le campagne elettorali. E poi, come ha spiegato in una lettera appunto spedita al partito, per accettare la candidatura ho lasciato la RAI e una retribuzione più alta. Ah, guadagnava la RAI più di quanto guadagna al Senato. Dunque, questa appunto è la notizia. E la Stampa dice che erano 300.000 euro lordi l'anno guadagnati alla RAI. Vabbè, questione di soldi. D'altronde i partiti hanno bisogno di soldi. Non solo i partiti hanno bisogno di soldi, anche lo Stato ha bisogno di soldi. E allora udite, cari ascoltatori, questa è una notizia più che da mani sul volante. Insomma, vabbè, no, dopo, bisogna stare calmi. Ma la diamo dopo la pubblicità, perché nei giorni in cui è stato sono state arrestate alcune persone per l'Expo, vabbè, vi do un assaggio. Indovinate il governo cosa pensa di aumentare? Sì, sempre la benzina, le accise sulla benzina. Anche perché servono a finanziare l'Expo. Beh, insomma, uno dice, ma che sfortunata coincidenza. Proprio nel giorno in cui vengono arrestate delle persone accusate, e vedremo se poi ci sono i fatti comprovati, ma accusate di avere preso mazzette sull'Expo, ti aumentano la benzina per finanziare l'Expo. Sono quelle cose che fanno, sì, diciamo, tenere le mani strette sul volante, va? Tenerle lì sul volante per non metterle altrove. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:36 minuti. Allora, come detto, è stata la giornata degli arresti eccellenti. Intanto 7 arresti per gli appalti di Expo, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 5, fermati soprattutto il direttore generale della società Paris e gli ex politici Frigerio, Greganti, Grillo, persone che rispuntano dalla vicenda Tangentopoli di 20 anni fa. Tutti i dettagli di Stefano Elli e Angelo Mincuzzi, così come voglio leggere l'articolo di Luigi Ferrarella, pagina 3 del Corriere della Sera. Filmati gli scambi di buste con i contanti, ho qui la cassetta di munizioni, in una delle intercettazioni. Non vi sembra proprio la vicenda Tangentopoli, no? È la vicenda Tangentopoli, 20 anni dopo. Tommaso Moro, si parte da qui, si rivolta nella tomba, nella versione datane da Frigerio, il circolo culturale Tommaso Moro di Milano Onlus, in via Andrea Doria, è diventato per i PM, Antonio D'Alessio e Claudio Gittardi, lo schermo di un centro di affari illeciti non solo nel settore sanitario ma anche nel settore di interesse di grande società a partecipazione pubblica quale la Sogin S.P.A., bonifiche di siti nucleari, l'Expo 2015 S.P.A. e la Infrastrutture Lombarde S.P.A. Era il quartiere generale della squadra, come tra loro si chiamano i vari giocatori, ciascuno con un ruolo preciso. Dalla bufera di Mani Pulite, che lo colse, ex parlamentare e segretario regionale della DC Frigerio, è uscito con una rete di contatti e influenze politiche intatte presso Berlusconi e la diaspora della Balena Bianca. E poi c'è Primo Greganti, dei quali gli altri indagati dicono è stata una grande mossa coinvolgerlo per coprirsi sull'altra sponda politica, il lato sinistro del campo di gioco. Parlano così di Primo Greganti, il compagno G del conto svizzero Gabbietta. 155 giorni di carcere senza mai parlare, già all'epoca con il PM di Mani Pulite, poi 3 anni di pena per le tangenti Enel, 6 mesi per finanziamento illecito. Eppure oggi, come emerge dalle innumerevoli intercettazioni, persona ritenuta dalla polizia giudiziaria titolare delle indagini legato al mondo delle società cooperative di area PD. E insomma, grandi affari, questa almeno è l'accusa, scambi di mazzette e poi ovviamente è tutto un profluvio di articoli su i 20 anni dopo. Tornano, no, i personaggi, tornano i personaggi di allora, proprio il compagno G, il costruttore, il RAS della DC, i protagonisti di Tangentopoli 20 anni dopo. Questo per esempio è l'articolo dell'intera pagina 4 del Corriere della Sera. Ma tutti i giornali appunto si concentrano su questo. Ora, per esempio, Sebastiano Messina, a pagina 4 di Repubblica, il compagno G ci ricasca e brucia 20 anni di reticenza comunista. Le tangenti, scrive Messina, non erano tangenti, sosteneva testa alta il compagno G, l'uomo di marmo con l'aria furba del pirata buono che nel 93 si fece il carcere senza fiatare e si prese la colpa di tutto pur di salvare Botteghe Oscure dall'infamia della corruzione. E comunque quella è storia di un altro tempo, diceva fino all'altro ieri orgoglioso del suo prezioso silenzio. E invece la storia è sempre la stessa, perché i magistrati di Milano lo hanno mandato di nuovo in cella, di nuovo per una storiaccia di tangenti appalti truccati per l'Expo. La parabola di Primo Greganti, che si chiama così perché ha un fratello gemello che si chiama Secondo, si chiude con un ritorno al passato che distrugge in un attimo 21 anni di onorata reticenza, un percorso penitenziale compiuto senza un solo lamento, concedendosi alla fine persino il diritto di dare patenti di moralità. Vedo che pure nel PD l'etica è diminuita, dichiarò nel 2008 guardandosi attorno. Vabbè, insomma, è tutto un ritorno. Ovviamente ora il rischio è che l'Expo sia in qualche modo terremotata. Matteo Renzi martedì sarà a Milano e dice serve massima severità su questo fronte. Il Sole dice che Sala chiederà, il commissario straordinario Sala, amministratore delegato, chiederà una nuova governance fino all'evento. Certo, c'è da dire che ci sono anche le intercettazioni, per esempio il Fatto Quotidiano ne pubblica una con Marco Palombi a pagina 5, nella quale le persone arrestate ieri parlano anche di altri protagonisti. In questa parlano per esempio del ministro Lupi. Sono Cattozzo e Frigerio, due degli arrestati, Sergio Cattozzo e Gianstefano Frigerio. A un certo punto il discorso finisce sui processi, parlano un po' del destino di Formigoni e poi parlano della vita. Guarda, Monte Carlo, va sempre all'Ermitage, Hotel de Paris, siamo 5 stelle russo, va a Luigi XV, è la stessa vita che fa Lupi, dice Cattozzo, arriva con uno yacht di 30 metri, va a mangiare tutte le sere ad Alghero, da quello famoso Andreucci, e annotano gli inquirenti, invece Andreini, tutti i giorni champagne e aragoste, e Frigerio, che parvenu provinciali, ma vadano a dare via, vabbè. Omissis, possiamo immaginare. Viene da CL, dice Cattozzo. Poi, tra le altre cose, dovrebbero avere una vita parsimoniosa. risponde Frigerio, ma proprio invece ricchezza sfrenata, proprio vistosa, arriva con questo yacht che sembra una nave attorniato di belle donne. E vanno lì da André, lì da quello che ha la stella d'oro ad Alghero. Cioè io ci posso andare, lui no, io sono un libero cittadino. Così Cattozzo, beh, non più libero verrebbe da aggiungere. Comunque, stralci le intercettazioni. Ma poi c'è l'altra vicenda Scaiola che vedremo tra un attimo. Prima vorrei salutare e anche sincerarmi delle condizioni di Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Ti sento con un tono tonico. Bene, no, stavo tutto a posto. Leggendo anch'io. Hai dormito a casa? Sì, sì. Sì, certamente. Non sei stato sbattuto fuori di casa dopo aver insinuato. Pensavo di dover fare una rassegna sulle mie condizioni, perché... del giornale dove lavoro, no? Sì, sì, sì, no. Perché no, però ieri ci hanno salutato, ci hanno scritto molti preoccupati a dire, ma come? No, ringrazio naturalmente subito gli amici, si fanno vivi, non si sa bene se per interesse o per fare dell'ironia, comunque tutto a posto. Ecco, l'importante è questo, tutto a posto. È tutto bene. Perfettamente normale. E così come è normale che... Scusami, adesso c'è un po' di pasticci, come sai, sull'Expo. Sì. Volevo dirti che noi oggi parliamo, oltre dell'Expo e di altri arresti importanti, però anche della questione della Grande Pompei, perché siamo in ritardo sui lavori anche con il recupero di Pompei, e c'è questo contributo di Antonello Cherchi che spiega che mancano ancora le strutture amministrative e i cantieri aperti sono ancora pochi, rischiamo di perdere i fondi della UE e non sarebbe una bella figura, diciamo, perché e neanche la prima non sarebbe neanche l'ultima, né una bella né una prima volta, però insomma questo ci tocca riferire. Invece naturalmente bonus IRPEF, mi raccomando, sì. I tuoi 80 più 2 euro, sì, che già avevi da parte. Abbiamo ancora delle indicazioni degli esperti e ci sono naturalmente poi sempre le risposte disponibili sul sito, abbiamo delle risposte anche oggi sul giornale. E poi, caro Alessandro, se un domani ti trovassi in difficoltà, sappi che oggi in Norme e Tributi trovi anche una rassegna degli incentivi per l'agricoltura, specialmente i giovani agricoltori. Guarda che tu scherzi, sì, ti ringrazio per il giovane, guarda che scherzi, ma io... No, è una cosa che io ti dico seriamente, se stai pensando così a una svolta di vita, sappi che... Svolta, sai, l'agricoltore si sveglia alle 5 più o meno come me, quindi già quello... Su quello già sei avvantaggiato. Ecco, però, appunto. Certo, di solito la terra sta più in basso del microfono, mi pare di ricordare. Sì, sì, però... sì, è la schiena il problema, non le occhiaie. Se invece vuoi proseguire con la tua carriera di amministratore di condominio, so che tu sei sempre molto interessato al condominio. Sì. Ecco, sappi che c'è un contributo importante nelle pagine di Norme e Tributi, perché è stato siglato un accordo di suddivisione delle spese tra inquilini e proprietari. Questa è una cosa che fa sempre molto litigare, e c'è anche un prezioso specchietto che consiglio di, come dire, staccare e conservare, si diceva una volta, sì, per vedere la suddivisione di spese, imposte, eccetera, eccetera, tra l'inquilino e il proprietario. Ottimo. E questo è quanto, insomma, non abbiamo, no, ci sono molte altre cose ovviamente, ma non mi sembra che incomba l'abituale grido. Che no, dobbiamo... ma sì, prima del grido, però è questo, io ho letto la notizia che mi ha fatto più infuriare e vorrei commentarla con te, perché oggi è sui giornali, caro Mauro, nel giorno in cui arrestano delle persone accusate di aver peso mazzette sull'Expo, che succede per un emendamento di Gianluca Rossi, PD approvato, si aumentano le accise sulla benzina per finanziare l'Expo. Guardate che poi io l'ho detto, la gente poi si arrabbia un pochettino, si arrabbia. E qualcuno dice, poi la gente vuole scappare via, e per scappare deve fare pure il pieno e pagare di più. Adesso, al di là delle ironie, nel giorno della retata aumenta la benzina per finanziare l'Expo. E questo non è bello. No, ecco, tu sei sempre molto pacato nei giudizi, caro Mauro. Non è bello. È una coincidenza sciagurata. Vabbè, è il momento del grido, Mauro. Dai. Va bene, e d'altra parte sei andato tu in tema sulle questioni automobilistiche. Quindi guidate, mettete benzina, pagate e... Traffico! La Dunata, avete sentito, dove c'è anche il nostro alpino Peter Bescapè a Pordenone, la Dunata degli Alpini, evviva! Allora, invece torniamo sulle questioni giudiziarie, perché l'altra grande inchiesta, e di cui parleremo, perché avremo ospite il magistrato che se ne è occupato alle 8.15, Giuseppe Lombardo, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, è la vicenda che coinvolge Scajola. L'accusa è pesante, aiutò un latitante, un ex parlamentare di Forza Italia che è stato poi condannato per associazione esterna alla mafia, si chiama Antonio Matacena, aiutò questo latitante che si trova a Dubai in questo momento a cercare di fuggire in Libano, a Beirut. La città vi dice qualcosa? Beirut, Libano, Dell'Utri, dove è ancora Dell'Utri. Comunque aiutò un latitante, arrestato Scajola. L'arresto ieri dell'antimafia di Reggio Calabria, tutti i dettagli da Roberto Galullo a pagina 21 del Sole 24 Ore. Ma insomma tutti i giornali sono pieni anche della parabola politica di Claudio Scajola, anche delle intercettazioni, le intercettazioni e gli incontri con la moglie di Amedeo Matacena, non Antonio, Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, era completamente asservito alla moglie dell'amico in fuga, questo è il titolo del Secolo XIX, pagina 3, Scajola intercettato con sola la donna, Amedeo ora è al sicuro. A un certo punto c'è questa intercettazione in cui parlano Rizzo, la moglie di Matacena, stiamo parlando della capitale, giusto? Certo, certo, dice Scajola, esatto, che inizia con la L, beh, il paese con la L, risponde Scajola, esatto, esatto, ah sì, no, che inizia con la B, la capitale, brava, ecco, perfetto, inizia con la B, volevo dire, scusami, ho sbagliato, sì, certo, devono farlo con chi, insomma, 50.000 attenzioni, questo sarebbe uno dei passaggi chiave, secondo i magistrati, nei quali si parla al telefono del trasferimento a Beirut, e poi ci sono incontri in autostrada, su piazzole di sosta, Scajola che dice al poliziotto della scorta io arrivo con la macchina, faccia scendere la donna davanti a me, poi sale sulla mia macchina, io scendo da questa macchina e salgo sulla mia, insomma quello che viene definito lo scappotto delle autovetture, insomma incontri che per la DDA di Reggio Calabria dimostrano che stava preparando favori e anche soldi per la fuga di Matacena. Ovviamente c'è il racconto dell'amarezza in famiglia, pagina 8 del Corriere della Sera, ancora una volta un'inchiesta giudiziaria, non ha potere, neanche è in lista la moglie nella villa perquisita, dice che c'entra Claudio con questa accusa, e tra l'altro a proposito della non candidatura, secondo il Fatto Quotidiano, questa è la posizione anche di Berlusconi, che ai suoi dice ci ho visto lungo a non candidarlo. Per la verità un Berlusconi anche preoccupato, secondo Repubblica, la paura di Berlusconi, questa è retroscena, pagina 15, con l'aria che tira anch'io andrò in galera. Questo avrebbe detto nel racconto di Carmelo Lo Papa, guardate che si sta stringendo il cerchio, puntano a revocarmi i servizi sociali, vedrete che finirò in galera. O ai domiciliari, così dice Berlusconi ai suoi. Tra l'altro, a proposito di servizi sociali che iniziano proprio oggi per Silvio Berlusconi alle 9.30. Notizia di cronaca. Beh, intanto la notizia di cronaca l'abbiamo sentita nel giornale radio, la sentiremo. È di questa mattina. È stato arrestato quello che è il presunto omicida della prostituta a Firenze, e chissà se anche presunto omicida di varie prostitute. Si è parlato di questi casi con l'attinenza al mostro di Firenze, è un idraulico italiano, è stato fermato questa mattina. Ma notizia che mi ha incuriosito anche su Repubblica, Rai, rosso record tagli al personale, attenzione, in una lettera inviata dalla Rai al Ministero dell'Economia si annunciano perdite per 180 milioni nel bilancio, effetto del DEF, il documento di economia e finanza, e quindi si preannunciano tagli al personale, così scrive Repubblica sulla Rai. Aldo Fontanarosa e Massimo Minella ne scrive una pagina 17. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, e siamo alla vittoria ancora una volta del giornale. che sta trionfando in questa classifica, che rischia di portarsi a casa la prima coppa che consegneremo al direttore, la coppa al premio La Carta Costa, prima edizione. Il titolo di questa pagina 20, Nino Materi: matrimoni bianchi senza sesso, una coppia su tre, dalla vicenda Marini. Valeria Marini che dice: non ho consumato il matrimonio, col marito, l'ex marito che risponde: ma come, si vantava delle mie arti amatorie con tutti gli amici. Vabbè, ma insomma, da questa vicenda il giornale ne trae una pagina per raccontare che è rispuntato nel vocabolario vintage l'espressione nozze bianche. Le nozze bianche, una su tre sarebbero i matrimoni, le nozze bianche in Italia. Perfino Belen non tromba, questo almeno scrive il giornale, ma no, La Carta Costa, dai, andiamo via, su 24 mattino. Eccoci alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, che sensazione di già visto ieri, in una giornata ad alto contenuto di manette in tutta Italia. Abbiamo visto rispuntare Tangentopoli a Milano, semmai era sommersa, forse non è mai andata via. In ogni caso, sulla vicenda Expo, e più avanti ne parleremo anche, 7 arresti, e tra questi alcuni volti proprio noti, il primo fra tutti, forse il più celebre, Primo Greganti, il compagno G, che è stato nuovamente arrestato a Milano. E poi altre manette eccellenti nella politica, nuovamente nei guai l'ex ministro Claudio Scajola, accusato di avere favorito la fuga di un ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena, che è stato condannato per associazione esterna alla mafia. Vogliamo partire proprio da questa vicenda, perché io ringrazio, abbiamo in collegamento il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria che ha condotto l'indagine su Scajola, si tratta del procuratore Giuseppe Lombardo, che saluto, buongiorno e grazie di essere con noi, dottor Lombardo. Buongiorno a lei, grazie a tutti. Voglio salutare anche il direttore del Secolo XIX, Umberto La Rocca. Direttore, ben ritrovato e buongiorno. Oggi, buongiorno. Titolate Senza Vergogna, tutta pagina con la foto di Claudio Scajola, un titolo molto molto duro. Intanto allora, dottor Lombardo, che cosa ci può dire, ovviamente senza fare strali del segreto istruttorio, di quello che è stato anche, immagino, il primo interrogatorio, anche magari della sensazione? È vero che Scajola era stupito nel momento dell'arresto? Beh, sicuramente era stupito, era sorpreso. Non era verosimilmente, diciamo, un passaggio che lui si aspettava. Dell'interrogatorio ancora non possiamo dire nulla, anche perché il giudice per le indagini preliminari ascolterà Scajola nei prossimi giorni. Le posso dire solo che si arriva a questo risultato partendo da lontano, cercando di ricostruire, come stiamo cercando di fare da qualche anno a Reggio Calabria sicuramente, ma anche in collegamento con altri uffici che si occupano dell'antimafia in Italia, quelle che sono le caratteristiche davvero complessive dell''ndrangheta di origine calabrese, soprattutto per individuare la strutturazione interna, quindi l'organizzazione interna, che in qualche modo coinvolge anche soggetti invisibili o insospettabili, e poi andare a individuare le relazioni esterne, nazionali ed estere, di cui l''ndrangheta ovviamente si avvale e che l'hanno trasformata in un'organizzazione così ricca e potente. Certo, c'è da dire che fa molto specie sentire l'accostamento, perché di questo si tratta, di un ex ministro dell'interno all''ndrangheta. Ecco, l'accusa che sì, è stata fatta nelle carte è proprio questa, cioè secondo voi Claudio Scajola, nel momento in cui aiutava Amedeo Matacena, sapeva, era consapevole di aiutare la criminalità organizzata di fatto? Ma questo a noi risulta da tutta una serie di contenuti intercettati, nel senso che l'impostazione che noi abbiamo dato, ovviamente un'impostazione che potrà poi in futuro subire tutta una serie di modifiche, siamo ancora in una fase del tutto preliminare, però da quello che emerge e quindi dalla viva voce dei protagonisti, questa consapevolezza, a mio modo di vedere, risulta dimostrata. Poi è questa l'impostazione che condivide il giudice per le indagini preliminari e che tecnicamente, diciamo, viene valorizzata quale con l'arresto. Insieme, certo, insieme di gravi indizi di colpevolezza. Ecco, perché l'arresto adesso? Cioè, che cosa stava per succedere secondo voi, per cui è stato necessario fermare? Perché l'arresto adesso? Ovviamente lei sa meglio di me che una misura cautelare come questa, nel momento in cui viene adottata, deve essere necessariamente collegata alla presenza attuale di esigenze cautelari di un certo livello. Nel caso di specie si stava verificando uno spostamento da Dubai, dove Matacena attualmente si trova, verso il Libano, proprio sulla base di tutta una serie di indicazioni che individuavano appunto nella Repubblica del Libano un territorio particolarmente favorevole per i condannati per concorso esterno in associazione mafiosa. Ricordiamo che lì è la città in cui c'è anche Dell'Utri, ma le due vicende si intersecano secondo voi? Con certezza questo ancora non si può dire. Certo è che sembra quella una legislazione favorevole come tale, voglio dire, viene o almeno si prova a sfruttare quel tipo di impostazione che in qualche modo, voglio dire, viene ritenuta vantaggiosa per coloro i quali in Italia vengono condannati per questo tipo Quindi di reato. Quindi era necessario perché stava per entrare in una fase operativa? Esattamente. Questo sì, per la quale si adoperava Scajola, questo secondo l'accusa. Allora io, direttore La Rocca, direttore del Secolo XIX, sta ascoltando con noi insomma il sostituto procuratore Lombardo che spiega i motivi anche dell'arresto, e vorrei capire anche i due titoli molto forti che avete fatto, Senza Vergogna in prima pagina e poi anche a pagina 3, e questo però è uno stralcio delle intercettazioni, era completamente asservito alla moglie dell'amico in fuga, cioè questo Scajola con la moglie Chiara Rizzo organizzava, secondo l'accusa, gli spostamenti di Matacena. Direttore La Rocca, ancora una volta Scajola nel centro della bufera. Ma sì, ma il Senza Vergogna mi pare che i lettori lo capiranno e lo sentiranno da soli, perché come hai detto tu, come ha detto lei all'inizio della trasmissione, c'è questa sensazione di già visto, di già sentito, gli stessi personaggi che riemergono dalle nebbie del tempo, diciamo, dove erano stati ricacciati, gli stessi meccanismi di Tangentopoli. Io non credo che sia il ritorno di Tangentopoli, credo che la cosa sia assai più grave, cioè che una Tangentopoli strisciante con soggetti diversi nel corso di questi anni noi l'abbiamo continuata a vedere nel nostro paese. Il livello di corruzione non si è mai abbassato e il livello di collusione della politica con un mondo degli affari che cerca scorciatoie non è mai venuto meno, diciamo. Però che lettura si può dare della vicenda invece Scajola? Cioè perché aiutava, secondo l'accusa, per una questione di amicizia? Secondo me le due vicende sono molto diverse, diciamo. La cosa che ha colpito noi, per cui diciamo lo spazio particolare, la durezza principale, è che nello stesso giorno, per una coincidenza, per due inchieste diverse, finiscono in carcere quelli che sono stati i due signori del partito di Forza Italia in Liguria, tutti, entrambi ricordiamo di origine democristiana, perché hanno tutti e due militato nella DC prima ancora che nascesse Forza Italia, cioè il senatore Grillo nel Levante, alla Spezia, e Scajola a Ponente. Quindi è evidente che c'è questa coincidenza che colpisce. Fra l'altro, tra loro sono stati perennemente in guerra sotterranea sia ai tempi della DC sia e soprattutto all'interno di Forza Italia, e questa è la coincidenza che ha colpito ovviamente noi, per cui il centrodestra che già boccheggiava in Liguria oggi non esiste più, perché il senatore Grillo era passato con Alfano, sì. Scajola Scajola era rimasto, almeno anche se con rapporti tesi con Forza Italia. Ecco, credo che però le due vicende siano molto diverse. A me questo sì, questo nel, certamente. Nel caso di Grillo c'è un classico meccanismo di spartizione di tangenti con i soliti soggetti, il compagno G, eccetera. E nel caso di Scajola invece la cosa mi appare molto diversa. Scajola si rivela ancora una volta un politico che ha dei vuoti, cioè che ha dei momenti di gravissima debolezza, almeno leggendo le carte dei magistrati che pubblichiamo oggi, noi come altri giornali, insomma. Lì si vede che c'è un doppio rapporto, ci sta un rapporto per cui lui appare soggiogato completamente dalla moglie di Matacena, una bella donna, che praticamente lo convince ad aiutare il marito. Sì, quello che appare, anche come suggeriva, anche se non lo può dire esplicitamente, insomma, ma che come suggeriva il pubblico ministero, il problema è il procuratore, il problema è che è molto difficile, insomma. Da una parte è molto difficile che Scajola non sapesse dei legami di Matacena, e dall'altro è irrilevante, francamente, perché la cosa grave è che un ex ministro dell'interno aiuta uno che è certo uno ad aiutare, ma infatti questo diciamo. Il procuratore di Reggio Calabria Cafiero De Rao ha proprio detto questo, e il dottor Lombardo vorrei anche un suo commento. Ha dichiarato in maniera un po' sconsolata, cioè colpisce proprio che un uomo che ha ricoperto posizioni di vertice e responsabilità possa occuparsi di un condannato nato per mafia, colpisce immagino anche lei, no? Sì, immagina bene, colpisce soprattutto nel momento in cui tutti i passaggi che vengono da noi ricostruiti, ovviamente sulla base di quelle che sono le emergenze investigative, portano a individuare il loro progetto come un progetto teso a far ottenere al Matacena l'asilo politico. Quindi sostanzialmente il tutto ruota e parte da una condanna definitiva del giugno 2013 adottata a carico di Matacena per un reato di mafia, lo dobbiamo dire, perché voglio dire, il concorso esterno è a tutti gli effetti un reato di mafia, in relazione al quale voglio dire, vengono poste in essere tutta una serie di attività finalizzate non solo allo spostamento, quindi da uno Stato estero ad altro Stato estero ritenuto più favorevole, e quindi con una legislazione che in qualche modo scherma meglio o comunque allontana la possibilità di andare incontro ad un'estradizione, ma con un progetto che è finalizzato a far ottenere l'asilo politico. Questo obiettivamente stupisce, soprattutto nel momento in cui è riferibile ad un ex ministro. Ma anche per voi il motivo è l'amicizia, evidentemente, perché cioè che tipo di interesse potrebbe avere ottenuto di ritorno? Ecco, su questo io ovviamente non posso approfondire più di tanto. Posso dire, per quello che emerge, che già è noto, che i rapporti tra Scajola e gli altri protagonisti, in particolare la moglie del Matacena, sono rapporti che sembrano andare al di là di una semplice relazione di questo tipo, e quindi della semplice amicizia. Però pronunciarsi in maniera chiara in questo momento non solo non mi è possibile, ma oltretutto rischierebbe di fuorviare sui temi un po' che ancora non sono dimostrati. No, certo, però un po' ci dice così dottor Lombardo, facendoci prospettare. Io mi riferisco soltanto a quello che è emerso. Da quello che è emerso sembra che ci siano dei rapporti anche di natura imprenditoriale che legano diciamo i vari protagonisti, e questo, voglio dire, mi sembra un elemento sicuramente su cui è necessario approfondire. Allora io le faccio quest'ultima domanda, poi la liberiamo, poi continueremo. Invece ci raggiungerà dopo la pubblicità Gherardo Colombo, che è stato magistrato nel pool Mani Pulite, con noi rimane anche Umberto La Rocca. Dottor Lombardo, sa che l'accusa invece per molti è la classica tornata di arresti in campagna elettorale. Voi rispondete come a questa accusa? Come le spiegavo prima, qui ci sono delle esigenze abbastanza evidenti, mi passi questo termine, proprio perché si tratta di condotte ricostruite negli ultimi mesi e ovviamente era nostro dovere non solo riuscire ad inquadrare in maniera completa quello che stavamo in qualche modo acquisendo a livello investigativo, ma soprattutto applicare, a mio modo di vedere, in maniera corretta quelli che sono gli istituti che governano le misure cautelari. E invece Mattascena, che cioè è a Dubai, è libero, mi risulta, cioè può, perché... diciamo che tecnicamente è in una fase, diciamo così, transitoria, perché è stato individuato a Dubai da molti mesi, è in attesa di estradizione, ovviamente non può lasciare il paese, però sì, tecnicamente lo possiamo definire libero. Intanto, dottor Lombardo, la ringrazio. Giuseppe Lombardo, grazie per essere stato con noi, sostituto procuratore. Grazie al direttore, ovviamente. Grazie della direzione distrettuale antimafia Reggio Calabria, ma la vicenda Scajola rimane sullo sfondo. Rimane con noi il direttore Umberto La Rocca, ci raggiunge tra poco Gherardo Colombo, magistrato per anni di Mani Pulite, ora ex magistrato, ma insomma per mettere insieme anche l'altra vicenda Expo e raccontare questa giornata di manette a gogo, si potrebbe dire. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:38 minuti. Allora, insieme a Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, ci ha raggiunto anche, voglio salutarlo, Gherardo Colombo, ex magistrato di lungo corso del Pool Mani Pulite, oggi presiede la casa editrice Garzanti. Buongiorno, dottor Colombo. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, ovviamente per mettere insieme le due cose in una giornata molto particolare, io vorrei, Umberto La Rocca, quello che colpisce invece nella vicenda Expo è che, insomma, sembra almeno una descrizione, a parte che ci porta un déjà vu, ma poi anche lì partiti di tutte le parti, cioè si mettevano insieme, questo secondo l'accusa, per far lavorare cooperative bianche, rosse, no? Lavorare tutti insieme e scambi di tangente filmati, cioè proprio come 20 anni fa, no? Questo almeno si è visto al momento. Sì, con una come 20 anni fa, con una variante, e cioè i 20 anni passati. E il fatto che fra un paio di settimane, 2 o 3 settimane, si vota per le europee, e nel frattempo c'è un movimento politico che da questa vicenda potrebbe trarre frutto. Cioè c'è anche un elemento... Che è il Movimento 5 Stelle, per capire, perché molti dicono questo porta voti, visto che discredita i partiti fino a questo momento classici, tradizionali, e porterebbe voti al Movimento 5 Stelle. Ma guardi, noi oggi pubblichiamo un'analisi di Luca Sabatini che spiega come questo potrebbe non essere decisivo, diciamo, no? Perché per quei 10 punti che separano ancora il Movimento 5 Stelle dal PD, che sembrerebbe, dal Partito Democratico, che sembrerebbe essere in testa dei sondaggi. Ma è evidente che comunque l'atmosfera di déjà vu, la sensazione che nonostante i proclami, nonostante le parole e la retorica della politica di questi anni, le cose non siano cambiate, favorisce chiaramente la protesta del movimento sì, 5 di chi Stelle. Dice siamo relativamente giovani, se non altro, e quindi invece noi promettiamo cambiamento, ma diciamo questo è il primo elemento. Il secondo elemento interessante nella vicenda è che effettivamente, mentre è evidente, io se parlo da una prospettiva esclusivamente ligure, è evidente che il centrodestra, che siano Alfagnani o Forza Italia, viene completamente, come dicevo prima, azzerato. Però c'è un campanello d'allarme, secondo me, anche per il Partito Democratico e per un certo spirito che ha continuato a infestare, ad essere la tab del Partito Democratico in questi anni, e cioè che una certa interpretazione del rapporto fra politica e affari, che va invece, al mio modo di vedere, assolutamente recisa se si vuole essere davvero un'alternativa credibile. E invece c'è, no, ma infatti leggo nel titolo anche di prima pagina del Secolo, spunta il tesoriere del PD ligure. Gherardo Colombo, più déjà vu, sì, per lei di quello che si è visto ieri, ha visto proprio le stesse facce, forse sono un po' invecchiate, che si è trovato di fronte. Sono passati 20 anni. Ma io prescinderei però da questa, da quel che è successo ieri, perché la notizia è giusto di ieri, poi bisogna far finire le fatte. Indagini, bisogna fare i processi, eccetera, eccetera, e quindi beh, prendiamola come una notizia di cronaca, che però dovrà necessariamente avere i suoi sviluppi. E come si sa, in Italia la presunzione di innocenza esiste fino alla sentenza definitiva, e quindi non parliamo delle persone, parliamo dei fatti. E i fatti che cosa le fanno, cosa le fanno suscitare? Ma io non è che cominci oggi a dire che secondo me è cambiato poco, forse è cambiato niente rispetto a 20 anni fa, lo dico con una certa frequenza, indipendentemente proprio da quelle, dalle notizie di cronaca che peraltro si susseguono, no? Non è un fulmine a ciel sereno, questo voglio dire. Già. No, chiaro, lei più volte ha detto, io ho visto anche le facce delle persone che a suo tempo arrestavo, poi le ho viste tornare, insomma, a fare le stesse cose di prima, nel senso anche le stesse attività. Sì, infatti. Sono piene le cronache di ritorni. Adesso a me non piace fare i nomi delle persone sulle quali mi è successo di investigare, di indagare, però i ritorni sono veramente tanti, no? Il che vuol dire che da una parte è una cosa che conferma, perché io credo molto molto profondamente, e cioè che non è attraverso attraverso la repressione penale che si riesce a superare un fenomeno così diffuso, no? E così endemico come la corruzione in Italia. Questo è un punto su cui lei batte molto, cioè la via penale, le manette, fanno magari spettacolo, è giusto che, voglio dire, un magistrato persegua un reato laddove certo, vede un reato, però non è questa la soluzione. Ma perché? Perché siamo in Italia e si vede che la misura repressiva non serve, o perché dovrebbe essere un'altra la soluzione? Secondo me la soluzione dovrebbe essere un'altra, dovrebbe essere una soluzione a livello educativo, no? La repressione penale è fatta per funzionare quando la devianza è marginale, quando la trasgressività è marginale. Se invece la corruzione, come succede in Italia, è così diffusa, poi diventa per forza inefficace, no? A parte che io credo, ne sono fermamente convinto anche qui, che bisognerebbe poi cercare di procedere su una strada di rieducazione piuttosto che su una strada di punizione, no? Che una strada di rieducazione che spesso è molto più faticosa rispetto al carcere, no? Però lasciamo perdere questo discorso per il momento. Io sono convinto, direi che so perché le mie esperienze, 33 anni in magistratura, a occuparmi molto spesso di queste cose, la scoperta della P2, i fondi neri dell'IRI, sì, e poi in Tangentopoli, Mani Pulite, eccetera. Che fenomeni così ampi, così vasti, dipendono da una accettazione al di là delle parole, da una profonda accettazione di comportamenti analoghi, no? Messi in opera da parte della cittadinanza nel suo complesso. Ecco là, cioè nel senso, questo è il giudizio sferzante che voglio dire, che tutti dovrebbero ascoltare. La corruzione dilaga perché è drammaticamente accettata e diffusa come un modo di vivere in Italia. Purtroppo è così, è inutile negarlo. E da qui voglio riprendere tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico, con gli ascoltatori, con Umberto La Rocca, con Gerardo Colombo. Eccoci qui alle 8:47 minuti, vorrei sentire se sono gentilmente rapidi, concisi gli ascoltatori. Cesare dalla provincia di Latina. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Che pensa lei? Allora, a me ben lungi da... Pronto? Mi torna la voce nella... Dica Cesare, noi la sentiamo bene. Ben lungi da me da difendere i corrotti, i politici e tutto quanti. Però, ad esempio, anche... Io ho quasi 50 anni e ho visto un po' di pronto, mi torna la voce. Lo so, Cesare, però guardi, noi la sentiamo benissimo. Vediamo così, magari miglioriamo la voce. Sentiamo Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno Stefano. Buongiorno Milan, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dici. No, dico, stiamo sempre alle solite, cioè vergogna, ma perché questa gente dovrebbe vergognarsi? Non lo capisco proprio, cioè queste persone, Scajola, Dell'Utri, Genovese, insomma, e quant'altri, staremmo qui tre ore a dirli, i vari assessori regionali, Fiori, e stanno lì, sono funzionari al sistema, ce li abbiamo messi noi. Come ha detto Colombo, cioè sono l'espressione di una italianità, cioè noi siamo fatti così, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito. Quindi è una questione di educazione, una questione, una cosa molto molto lunga, insomma, sì, sì. No, combattere chiaro. Le mafie, l'evasione, quindi lei dice non dovrebbero provare, cioè vergogna, sono italiani, che vabbè, al di là del fatto la legge elettorale, adesso non vogliamo introdurre il discorso che non si possono votare le persone eccetera, però dice è un problema di italianità, c'è un problema, siamo così, sono espressione del nostro popolo. È interessante questo discorso, direttore La Rocca, che è quello che diceva anche Gerardo Colombo, la corruzione c'è perché la via giudiziaria non è quella più semplice, anzi non è quella che toglie la corruzione. La corruzione c'è perché viene accettata, è diffusa perché viene comunemente considerata come un metodo con cui si può vivere in Italia. È La Rocca. Sì, io sono d'accordo, ma è diverso da quello che dice il dottor Colombo, è diverso da quel che dice l'ascoltatore. L'ascoltatore dice che si tratta di un fatto di italianità, e questo invece non mi trovo d'accordo, perché non bisogna essere provinciali. Secondo me la corruzione è un fenomeno che esiste e, a mio modo di vedere, continuerà ad esistere, e esiste anche fuori d'Italia. Basta sfogliare i giornali francesi per vedere quel che è successo negli ultimi mesi, tanto per fare soltanto un esempio. Il problema non è l'italianità, il problema è effettivamente che c'è una tolleranza sociale da parte e della classe politica, che ha difeso al suo interno, spesso e volentieri in questi decenni, ha difeso elementi. Addirittura noi abbiamo avuto, come tutti sanno, dei condannati che sono rimasti, difesi dai loro colleghi, sono rimasti all'interno del Parlamento. Quindi questo è il primo elemento di tolleranza. Dopodiché è verissimo, fino a... lo dico anche perché bisogna poi anche mettere in gioco se stessi. Fino a due anni fa io ero, sa come succede, insomma, ero all'interno di un premio letterario inventato dal senatore Grillo a Monterosso, ok? E il senatore Grillo naturalmente era è passato attraverso altre vicende giudiziarie legate, sì, la vicenda delle banche, a Fiorani eccetera, poi ne è uscito assolto. Bene, allora poi per fortuna e per ragioni di opportunità di svariato genere me ne sono tirato fuori, ma il punto è che, e in questo ha ragione Colombo, il punto è che esiste un sistema creato e dai partiti e dagli interessi degli imprenditori italiani, di molti imprenditori italiani, che cercano delle scorciatoie che è quello che avveniva poi, a Milano anche in questa occasione, sì, diciamo. Cioè, poi c'è l'elemento della tolleranza sociale, per cui il potente, nonostante quello che fa, resta comunque un potente, e quindi va in qualche modo, viene accettato socialmente, sì, e non viene messo in discussione. Ma questo qui diventa lentamente, diventa sistema. L'ultimo elemento che aggiungerei a quel che diceva il dottor Colombo è un elemento di inamovibilità. Sì. Se si guarda, faccio l'esempio della Liguria perché io lavoro e vivo qui, ma è quello che accade anche altrove, c'è un'inamovibilità della classe dirigente, qualunque cosa faccia. Un'inamovibilità per cui noi ritroviamo molti dei protagonisti, e naturalmente non è che sono tutti mascalzoni o sono inamovibili, e quando c'è inamovibilità è molto più facile creare dei potentati, no, ma è questo chiaro, è chiaro, ma sul ruolo della politica vorrei da Gherardo Colombo, la politica in genere, per carità, non la voglio fare entrare in considerazione di questo e quel partito, sul ruolo della politica però si è parlato molto del ruolo della politica, di avere anche un'etica che possa, allora la politica è espressione di questa società e quindi ce li dobbiamo beccare alcuni di questi politici oppure si può fare qualcosa, Colombo? Ma io credo che la politica sia espressione di questa società, perché o bene o male, ma magari senza scegliere i nomi, però insomma la forza politica, l'indirizzo politico, bene o male i cittadini la scelgono, no? La forza, il partito, quel che è, lo scelgono e continuano peraltro a sceglierlo di elezione in elezione, no? Salvo qualche novità dei tempi più recenti. La politica riflette il modo di essere dei cittadini, perché vede, secondo me questa tolleranza alla corruzione parte dal salumiere che fa fare la spesa gratis al vigile urbano perché questi non controlli la bilancia, parte dalla signora che accetta di non farsi fare la fattura dall'idraulico in cambio di un piccolo sconto, queste cose qua, no? Che sono quotidiane e sono diffusissime. E dice, da queste piccole cose si genera poi la situazione. Certo, no? Però la politica, secondo me, qualche cosa potrebbe fare. Cioè, io mi immaginerei, per esempio, che visto il clamore di quel che è successo ieri, che quel che sta succedendo poi con una certa continuità, immaginerei, per esempio, che all'interno dei partiti si creasse e si facesse vedere che funziona una struttura, si trovassero delle persone aventi il compito di verificare la correttezza sostanziale, oltre che formale, dei comportamenti in relazione a queste cose. Ma una sorta, no? Di codice etico nei partiti. Io temo che per i partiti valga di più chi porta più voti, temo che... Che dobbiamo sostanzialmente arrenderci, infatti, sotto il profilo della speranza che attraverso la politica si possa compiere un'opera in qualche modo educativa, no? Allora ci arrendiamo. Ma perché arrenderci? No, però temo che sotto quel profilo, nella politica, diciamo, i voti da portare è un elemento che contano, perché poi quando il potere si pesa in termini di voti in tempo di elezioni. Vorrei sentire Claudio da Roma, con cui vorrei concludere. Claudio, buongiorno, ci ha chiamato. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un imprenditore. Ha detto bene il signor La Rocca prima, è sempre esistita, esiste e sempre esisterà. Guardi, che cosa? La corruzione. La corruzione. Consideri che le mafie non hanno solamente il controllo del pizzo o della droga, ma hanno anche il controllo dell'imprenditoria con le loro imprese. Io ne sono capitato in mezzo per la ricostruzione all'Aquila e questo è all'inizio della ricostruzione, badi bene, non adesso. Quindi voglio dire, cose risapute anche da loro. Signor Colombo ha detto bene, la corruzione parte dal piccolo. Io a Roma devo comunque sempre corrispondere e rispondere ai più piccoli per avere licenze e permessi nei tempi celeri, perché altrimenti si perdono nei meandri della burocrazia. Quindi lei dice è obbligatorio, o si fa così oppure chiudo baracca. Insomma, è una missione di, come dire, di alzata di mani, come ci ha detto Gherardo Colombo, che voglio salutare e ringraziare perché il tempo a mia disposizione è finito. Ma soltanto un secondo, no? Perché sembrerebbe disfattista quasi la mia osservazione. Io volevo dire che non si può contare sulla politica, però attenzione, si può e si deve contare sull'educazione. Certo, questo sì. È un tema che magari riprenderemo e vi ringrazio. Gherardo Colombo, Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, l'appuntamento è rinnovato a lunedì alle 6.30. 24 mattino. Caro Sandro. Santo. Caro Sandro.